nessuno lo sa, sono patacche o no, questo non lo dirà. Faccia di cuoio, si dice che lui sia figlio di un conte. Solo lo so, non è mai triste, però come un soldato.